L'abbondanza, meccana numero 15 di tre versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. In verità ti abbiamo dato l'abbondanza. Esegui l'orazione per il tuo Signore e sacrifica. In verità sarà colui che ti odia a non avere seguito.